stata fatta un'inchiesta approfondita e ha portato a un nulla di fatto. È lo stile dei dirigenti che viene fuori. Mi preoccupate voi, sinceramente. È un affaticamento, come sono stati milioni in ogni sport. Primi secondi in qualifica qui, primi secondi in gara qui, hanno vinto anche a Singapore, quindi definitivamente le ultime 3 o 4 gare sono state molto dominanti per loro. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Biattanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Dunque, vigilia di Juventus-Napoli, abbiamo per forza bisogno di una partitissima per il nostro campionato un po' depresso. Eccola qua, 8ª giornata, siamo soltanto a novembre. Partita gonfiata come una rana, perché di decisivo, lo sapete anche voi, non c'è proprio nulla. Oggi parleremo naturalmente anche di basket, con l'Eurolega che volta le spalle beffardamente, direi, sia a Siena che a Cantù, vicine a grandi colpi in trasferta. È un giorno di lutto anche perché è morto il leone delle Fiandre, Fiorenzo Magni, e poi sentiremo anche un ricordo dell'ex CT Martini. Beh, insomma, partiamo da Juventus-Napoli. Prima di tutto questo, di quest'altro, potremmo stupirvi con effetti speciali o fare un sacco di peccati e di polemiche, ed è proprio quello che faremo. È proprio quello che faremo. Abbiamo fatto. Dunque, innanzitutto, abbiamo prospettato i duelli di questa partita. Cominciamo da quello. Da quello che è cominciato in nazionale con i portieri. 800 24 00 24, io voglio le vostre voci subito. Al di là del fatto simbolico che io porti la fascia, credo che alla fine i capitani di questa squadra ce ne sono tanti. La mia reazione è quella, perché io sono fatto così. Io gioisco sempre costantemente con i miei compagni all'interno dello spogliatoio, eccezione fatta per magari alla fine dell'anno, quando il risultato è acquisito e tutto. Niente di più, niente di meno. Buffon e De Sanctis, naturalmente. Ha appena finito di parlare Carrera, senza ultima conferenza stampa tra l'altro di Carrera, allenatore della Juventus, poi tornano i titolari, mentre Mazzarri, con decisione anche siccome bizzarra da morire, ha deciso che invece per il Napoli non parla nessuno, per non caricare troppo questa partita. Immaginatevi un po'. Allora, prima di una finale di Champions League o dei mondiali, che facciamo? Tutti ibernati fino al fischio di inizio, oppure tutti chiusi in un bunker antiatomico? 800 24 00 24, convocati tutti voi che non siete ibernati e nemmeno in un bunker antiatomico. Mazzarri non vuol convocare, provocare troppo rumore intorno a questa partita. Intanto ne ha fatto un sacco ieri in un'intervista anche lì abbastanza delirante. Potrei lasciare a fine anno, non sopporto lo stress, come se per fare della facile demagogia non fosse stressato ad esempio Rocco da Napoli, primo convocato di oggi a fine mese quando arriva l'estratto conto. Rocco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve, volevo dire solo una cosa. Dica. L'arbitraggio di domani non deve essere come è stato quello di Pechino, e spero che sarà una partita piacevole da vedere. Ma c'è l'amuleto, D'Amato. Esatto, c'è D'Amato, spero che l'arbitro farà le cose giuste. Pronta la statua del presepe per D'Amato, nel caso in cui vada come l'altra volta. L'unica volta che ha fischiato Juventus-Napoli finì 2-3 per il Napoli. Per il Napoli. L'ultimo, già pronto. Esatto, l'ultimo gol fu di Amsic, il 3-2. Bravissimo, quindi già pronta per D'Amato. Comunque stato domani il risultato esatto 1-3 per il Napoli. Ah, vuole sfidarmi sui pronostici? Sì. Vuole sfidarmi? Vuole sfidare Radio 24 sui pronostici? Stia attento. perché oggi abbiamo fatto un giro di pronostici tra i top player, le voci che ben conoscete di Radio 24 e sono uscite delle cose abbastanza interessanti, direi, a cominciare da Oscar Giannino. Pronostico di Oscar Giannino per Juventus-Napoli: 0 Juve, 4, 5, 6 per il Napoli, che tutto sia azzurro. 800240024, siete convocati tutti voi. C'è anche la plomb di Deborah Rosciani, che però un po' di aplomb l'ha perso quando le abbiamo chiesto il pronostico. Ma di che cosa stiamo parlando? Che domande mi fate? Lo spread fra la Juve e il Napoli è a 570 punti base, il livello a cui stava quello fra Italia e Germania un anno fa, per cui non c'è storia. Juve-Napoli 3-0 senza ritegno, sono una juventina senza vergogna, per cui ovviamente anche scatenandomi l'ira di Dio tra i colleghi qua in redazione, io imperterrita vado avanti, bianconera per sempre, per cui ci risentiamo qua lunedì. Ci avete sfidato sui pronostici, ma noi siamo preparati, vi facciamo sentire subito anche quello di Simone Spezia. Vuoi il pronostico? Secondo me finisce con un tristissimo uno pari. No, Simone Spezia, un tristissimo uno pari. C'è Alessandro Milan invece, la nostra voce del mattino, chissà qual è la sua idea su questo Juventus-Napoli. Eccoci qua, allora mi hanno chiesto un pronostico su Juventus-Napoli. Porca miseria, tifiamo Napoli ma proprio... Tutta la vita, ma mi sa che sti gobbi maledetti la sfangheranno ancora, e quindi dico 3-1 per la Juventus, e nel dirlo proprio mi crolla tutto. Scudetto già segnato, tutto finito, buonanotte ai suonatori. Grazie. Vince la Juve 3-1, gobbi. Prendetevela con voi e mica con me settimana prossima, da lunedì, quando il risultato di questa partita sarà svelato. Pronostico cinematografico quello di Franco D'Assisti. Secondo me vince il Napoli 2-1. Infine, che abbiamo? Il mio amico Matteo Caccio, non poteva mica mancare. Matteo Caccio, cui ha alzato l'aria condizionata a manetta, così quando arriva gli prende il raffreddore subito. Stupisce il fatto che Napoli-Juve sia stata una grande sfida 5 anni fa per salire in Serie A. Adesso sono lì in testa, per cui uno se la può godere senza avere paura di dover capire se devono salire o scendere. Penso che vincerà il Napoli, anche se a Torino è l'unica squadra contro cui la Juve ha perso l'anno scorso, quindi io credo che sia un 3-1 per il Napoli, un gol di Hamsik, uno di Pandev e uno di Cavani. Quello della Juve, boh, Pirlo su punizione. Pensate che sono i giornalisti come me, secondo un ascoltatore, a mettere tutto questo veleno e ad alimentare le polemiche. Avete capito? Sono io, stiamo mettendo del veleno, secondo loro. Ma non lo so, io aspetto voi e le vostre voci, i vostri sms sono lì, li leggo tutti naturalmente, compresi quelli più... Ma parlate di basket, scrive un ascoltatore, ma parlate di basket, un ascoltatore che si chiama come me, ma stiamo per farlo, un attimo di pazienza, poi torneremo ancora su Juventus-Napoli. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Domanda veloce sull'Armani. Sì. Cosa dovevamo aspettarci da questa stagione? Che cosa farà Armani per vincere qualcosa? Perché... continua a spendere, mi sembra che quest'anno abbia fatto una squadra veramente interessante e al top. Poi vanno ad Avellino e perdono di 20 punti contro una squadra che ha messo in campo veramente una gran voglia di vincere, ma aveva anche fuori parecchi giocatori. E restiamo sorpresi da questi alti e bassi, vittoria con l'Efes e sconfitta di 20 punti ad Avellino. Le faccio rispondere da coach Dan Peterson, guardi un po', che intanto saluto. Ciao Carlo, amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Senti, domanda ascoltatore, ma cosa bisogna fare per vincere qui a Milano? Il viaggio a Lourdes? Dopo la partita di Avellino, Milano deve riscattarsi subito. C'è proprio stasera che noi su Sport Italia facciamo una partita alle 18.30, fra l'altro, su Sport Italia 2 lì a Zagreb, in Croazia, contro le Cedevite. Quindi veramente hanno bisogno di fare questo qui. Poi lunedì tornano qui a Milano in casa contro Roma, una squadra sempre pericolosa con Gigi D'Antoni e compagnia. È chiaro che i segni, io dico che hanno pagato, l'ho scritto anche sulla Gazzetta, sì, la partita con i Boston Celtics, però è chiaro che hanno recuperato energia da quello lì, in modo di dire, ok, ha perso prima a Bologna, poi giocato contro i Boston Celtics, poi hanno recuperato energia, hanno battuto Evers. Buona squadra, Milano ha vinto in maniera abbastanza convincente, era anche più 16, una cosa così. Poi è finita 5 alla fine perché gli altri sono rientrati perché hanno del talento, Vujacic e Farmer, eccetera. E quindi tutte le indicazioni positive c'erano in quella partita lì. Sì. Poi ovviamente vanno a Avellino, la partita lì è stata quella che è stata. Cioè, quindi, e adesso feriti tutti nell'orgoglio, eccetera. Adesso vediamo questa sera, vediamo lunedì per le due risposte nello spazio di 72 ore. Senti coach, ieri sera una serata da mangiarsi i gomiti per le imprese toccate con le mani e poi sfuggite. Siena ce l'aveva in pugno, la vittoria all'Olimpia di Lià, uno dei campi più difficili d'Europa, così come Cantù è andata ad un passo dall'espugnare il fortino del Panathinaikos. Ma tutte e due, Carlo, hanno perso ciascuno per due punti, cioè dopo aver avuto il più alto e anche abbiamo fatto la partita, io ho fatto la partita con Nicolo Trigri ieri sera di Siena, a Tel Aviv. Siena meritava di vincere assolutamente, e secondo me, visto dopo la partita che ha fatto Matteo Gandini con Lino Lardo di Cantù, che ha giocato anche più alto loro, tanto per dire, quindi le due squadre meritavano di vincere, e come ho detto ieri sera, non voglio buttare via il bambino con l'acqua sporca, ok? Quindi hanno perso, ok, sono due sconfitte brucianti che veramente fanno male a loro e anche tutto il basket italiano, perché le squadre italiane devono andare, uno, andare dentro la Lega, non tre squadre ma quattro, e tutte le quattro devono andare almeno al top 16. Poi dopo diventa molto difficile, però è il mio desiderio per il basket italiano è questo, e anche a vedere quattro squadre nella Euro Cup, cioè voglio vedere grande esposizione delle squadre italiane e buoni risultati. Eh sì, questo sarebbe interessante. Sandro dalla provincia di Parma, convocato al telefono 800 24 00 24, dica. Buongiorno. Sono Sandro, tifoso di Milano, saluto coach Dan Peterson e volevo chiedere, ho visto la partita di Siena e mi sembra di aver capito che manca moltissimo quel giocatore di cui ora mi sfugge il nome, che era del nord Europa, che era secondo me no, sto parlando di scusatemi, era un finlandese Andersen, non so, Andersen. Lui viene da Australia, danesi. Origine danese, chiedo scusa l'ignoranza, ricordo soltanto che era un grande giocatore e mi dava l'idea, cioè non so dove sia finito, chiedevo se era ancora nel roster o se fosse stato venduto, non lo so, ero solo curioso, grazie. Grazie a lei. Manca Andersen a Siena secondo te, coach? Ma guarda, hanno perso otto giocatori che sono stati lì diversi anni, ok, quindi non uno, non due, ma diversi, quindi restyling adesso della squadra con coach Luca Banchi. Ieri hanno fatto una bellissima partita, cioè proprio bella, hanno giocato senza paura, proprio con grande impegno, con cioè non tirando bene ma neanche i Maccabi, con grande impostazione tattica, con la zona 2-3 impostata proprio dal coach Luca Banchi, ha dato parecchio fastidio a Maccabi. Quindi sia Cantù che Siena, tutti e due hanno veramente rappresentato per me il basket italiano con grande onore. Senti coach, ti chiedo due domande che mi arrivano via SMS, parlate sempre le solite tre, la Virtus Bologna come la valutiamo? Guarda, io voglio dire che Virtus Bologna, Sassari e Varese, che sono tutte le tre imbattute e in testa della classifica, sono per me, ok, tre realtà. Io non avevo all'inizio dell'anno, non avevo incluso la Virtus Bologna in questi sfidanti, diciamo. Avevo detto però Varese e Sassari, che erano due buone squadre e sono due buone squadre, allenato bene, eccetera. Però la Virtus Bologna ha risultati alla mano, cioè bisogna riguardare loro con grande rispetto, hanno battuto Milano, sono 3-0, sono una squadra veramente seria, a dir poco. E invece c'è un ascoltatore di Imola che domanda un tuo giudizio su Frank Vitucci, è pronto per una big Vitucci? Well, innanzitutto sta allenando un big Varese, ha fatto 10 finali di Coppa del Campione, ha vinto 5, grande tradizione, e lui li sta portando veramente in alto, se uno vuol dire altre squadre, ma Frank, non si scopre Frank oggi, nel lontano 96 lui ha fatto la promozione con Venezia, tanto per dire, ha fatto il lavoro che ha fatto lui ad Avellino, cioè proprio veramente è un bravissimo tecnico, e quindi E Varese ha riconosciuto questo, quindi lui sta vivendo questo momento proprio in una squadra di grande nome, Varese, quindi anziché guardare avanti, vediamo Franco quest'anno qui che sta andando benissimo. Sì. Coach, visto che i pronostici sono il tuo forte, che oggi abbiamo fatto i pronostici su Juve. No, mi stai prendendo in giro. No, coach, Juventus-Napoli, cioè, abbiamo fatto fare il pronostico anche a Oscar Giannino che è diventato matto, insomma. Ha detto 6-0. Napoli, no, no, a Torino, ha detto 4-5-6-0 per il Napoli. Secondo te come finisce? Ma guarda, rubo un secondo, innanzitutto ovviamente vado sempre fattore campo, 1-0 Juventus, però sono stato recentemente a Sorrento vicino a Napoli e mi dicono che per i tifosi di Napoli la grande rivalità non è Salerno, non è è Juventus, quindi grande sentimento per la partita, però vado sempre Juventus, se sono 2 anni che non perdono in Italia, o 1-1 o 1-0 per Juventus. Coach, ti saluto con questo messaggio. C'è un ascoltatore di Paolo da Prato, che dice: siamo il basket e grazie al coach, lui e le sue telecronache su Italia 1. Italia 1, ma è solo su Sport Italia adesso? Adesso Sport Italia, però tu hai iniziato lì, dai, su. Va bene. Grazie molte. Okay. Ciao coach, ciao, alla prossima. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao, un abbraccio. Tra poco torniamo a parlare di basket, ma prima un altro duello di... Juventus-Napoli di domani sera. Noi quello siamo convinti di poterli battere, però non ci vorrà una grande Juve, una grande Juve, una delle migliori Juve sicuramente. Abbiamo studiato la partita e personalmente poi insomma è un po' di tempo che seguo questa squadra. Sono cose rare, che già giocare nel Napoli è un'emozione diversa, vincere qualcosa sarebbe qualcosa veramente di straordinario, anche perché il napoletano non dimentica, quindi significherebbe veramente per un futuro veramente stare nella memoria dei napoletani, non è poco. Che ne dite? A proposito di... cioè, ci domanda chi viene fatto Andersen di Siena, se l'ha portato Pianigiani al Fenerbahce. A proposito, tutto il mondo è paese, leggo questa notizia. Romain Sato è stato del Fenerbahce, naturalmente, è stato arrestato ieri a Lubiana. La polizia slovena lo ha fermato all'aeroporto con l'accusa di possedere un passaporto della Repubblica Centrafricana falso. Il Fenerbahce di Pianigiani ha accusato la polizia di aver fermato l'ex ala di Siena così che non possa scendere in campo stasera con l'Olimpia. Pensate un po'. Mario da Pescara, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Salve, dica. Do pure io i numeri. Dia i numeri finché vuole. Allora io mi allineo al collega suo, non ricordo il nome, che ha detto che sarà un tristissimo 1-1. Simone Spezia. Sia un tristissimo 0-0, non saranno male, saranno due cotti, quindi è troppo presto, quindi cercheranno di farsi meno male possibile. Comunque volevo dire una cosa, dica. A margine. Che ci dice della nuova notizia di Conte, Bari, Kutuzov, che ho sentito così, ma non ne parla più nessuno. Di stamattina Kutuzov, che pare che ha messo Conte in mezzo per Bari Salernitano, messo denuncia. Non ho letto, mi spiace. Sì, stamattina una radio, insomma, sì, pensavo fosse una notizia importante, insomma, quindi lei non ne sa nulla. Vabbè, no, non le so rispondere, non ho letto, mi sono concentrato su altro. Queste storie mi hanno anche un po'... Vuoi il pronostico? Secondo me finisce con un tristissimo 1-1. Tra poco convocheremo anche Flavio Tranquillo per parlare ancora un po' di pallacanestro. Sta parlando anche Massimiliano Allegri, che dice: Pato titolare, sto valutando al momento, Pazzini è favorito per partire dal primo minuto. Ma intanto un altro duello di Juventus-Napoli, quello dei centrocampisti. Sei un bastardo. Dopo partita l'ho tagliata, ma già è cresciuta, che mi crescono subito i capelli. Sono contento che sono cresciuti, perché senza capelli non sono io. Follia, no, in quel momento mi sentivo di fare quella cosa e secondo me era la cosa più giusta da fare. Penso sia stata una cosa folle, sono cose che ti vengono in quel momento e a me mi veniva da farlo. Amsic e Pirlo, questi i due principi dei rispettivi centrocampi. Alfredo da Napoli. Sì, buonasera. Buonasera. È un piacere. Reciproco. Premetto che sono un tifoso del Napoli, sono amante del bel calcio. Vorrei solo precisare che in certe occasioni, secondo il mio modesto avviso, cioè la chiarezza sarebbe la cosa migliore. Nel calcio dirlo non c'è, quindi da tifoso mi allontano un po' dall'ambiente, perché quando poi giochi bene, perdi la partita per episodi. Ma a cosa si riferisce quando parla di chiarezza? No, ma io parlo in generale. No, in generale, parliamo in particolare. Dovrebbero essere, parliamo di l'arbitro è, di è questo vittima, stiamo parlando. L'arbitro è una vittima perché non è assistito adeguatamente, quindi prende decisioni avventate, oppure non essendo sicuro può influire negativamente sull'andamento della gara. Questa è una cosa che l'arbitro fa l'arbitro, fa i suoi errori, fa così come fanno i giocatori. Arbitrare una partita di calcio oggi è di una difficoltà mostruosa. Io leggo sotto le tra le sue parole in controluce questa voglia dannata di Moviola, che non appoggerò mai dal mio punto di vista. Mi piacerebbe vedere risolto una volta per tutte il problema del gol non gol, ma questi sono discorsi che abbiamo già fatto, insomma, anche troppe volte. 800 24 00 24, e siete tutti convocati anche voi. Tra l'altro abbiamo altri pronostici da farvi sentire oltre a quelli dei nostri top player di Radio 24 che avete ascoltato prima. C'è anche Bobo Vieri, per esempio. Questa mattina era a Roma alla tappa dell'esposizione della Champions League. Dario Ricci lo ha avvicinato e Vieri ha parlato. Senti, siamo alla vigilia di un weekend fondamentale per il campionato, Juventus-Napoli e Lazio-Milan. Beh, però quei tre punti poi peseranno alla fine, dai. Ma è ancora presto. Quante partite hanno fatto? No, è un weekend un po' più emozionante rispetto alle altre, ma non è fondamentale per niente. Sono ancora 30 partite da fare. Chi sarà il giocatore più di questo poker, di queste due sfide? Il più grande protagonista? So, mi chiamano il mago, non lo so io. Ma non devo guardare il simile, devo guardare la squadra. Sono quattro squadre forti e vincerà chi sarà un po' più fortunata delle altre. Questo era Bobo Vieri, che poi ha avuto da dire anche su Balotelli e sul Manchester City, ve lo faremo ascoltare più tardi. Intanto Flavio Tranquillo, ciao Flavio. Buondì. Andiamo, io voglio parlare di basket americano con te anche oggi, perché c'è una squadra che mi incuriosisce molto, che ha grandi ambizioni, che sta al di là dell'Hudson e che si chiama Brooklyn Nets. Grandi aspettative. Come li valuti? Come ne valuti la crescita? Come ne valuti le prospettive e gli sviluppi? Ma io penso che la cosa più importante sia appunto essersi trasferiti dalle paludi a Brooklyn. Sì. Questo permette di disgiungere l'immagine di questi Nets da quella di quei Nets, che è piena di episodi talmente divertenti a guardarne il lato comico che secondo me pregiudicava proprio il tutto. Jay-Z adesso ci andrà un po' più volentieri senza sporcarsi gli stivali, Sì, sicuramente. Adesso diciamo si sono rifatti una verginità. E di certo l'ultimo dei problemi che hanno è la disponibilità di risorse, visto che la proprietà è di Mikhail Prokhorov, che ne ha e vuole spenderli. Naturalmente è un sistema in cui non basta averli e non basta volerli spendere, perché bisogna poterli spendere e saperli spendere. Sul poterli è una questione tecnica, ci vuole ancora un po' di tempo per poter spendere tutto quello che hanno. Sul saperli, secondo me, sono un po' vittima del sistema NBA, ovvero sia tu devi anche nelle condizioni dei Nets pagare molto quello che non vale così tanto per cominciare a convincere giocatori buoni, ma non così buoni da meritare tutti quei soldi, ad andare a Brooklyn. Se continuano, hanno pazienza e non fanno colpi di testa, a tempo 2-3 anni saranno di altissimo livello. Quest'anno no, non da playoff. No, quest'anno sì, da playoff sì, perché a est da playoff, se, diciamo sesto, settimo, ottavo, sono, non dico tutti, ma quasi tutti. Però da poter recitare un ruolo nei playoff sarei sorpreso, magari mi sbaglio. Senti, questa mattina ESPN ha sparato, Kobe potrebbe smettere nel 2014 alla scadenza del contratto. E c'è chi in controluce ha già visto un LeBron James pronto a una destinazione dorata, sponda Los Angeles Lakers. Guarda, naturalmente io non ti posso e non vi posso dire è così sicuramente, non è così sicuramente. Posso dire che questo articolo che ho letto anch'io è firmato da un giornalista che ha degli eccellenti contatti in quello che in America si chiama il camp di LeBron James, ovvero sia l'ambiente circostante LeBron James. Posso dire che i due anni di Bryant, sì, quelli in linea di massima mi risultano, sempre che ci sia il lieto fine, ovvero sia che Bryant arrivi a questo sesto titolo, altrimenti poi si fa sempre a tempo a fare diventare i 2, 3 o 4 o 5. È un po' presto, è una partita comunque talmente complicata che queste sono solo le prime mani, le riprese di riscaldamento. Stiamo parlando del 2014. L'ultima cosa che ti chiedo è sui primi battiti invece del nostro campionato, hai avuto qualche sensazione particolare? Guarda, sono stato a Varese a vedere Varese-Siena e ho avuto la sensazione che Varese sia una situazione in totale controtendenza rispetto al resto, e che essendo il resto un po' più consistente da un punto di vista numerico e percentuale mi preoccupa più che sollevarmi, nel senso che a Varese c'è quello che noi definiamo un po' superficialmente entusiasmo, che non basta neanche per Varese, perché poi sembra l'entusiasmo dovrebbero esserci attaccate tante altre cose, ma se non avendo tutte quelle altre cose non c'è neanche l'entusiasmo, allora la depressione cosmica del resto tende a pervaderti, bisogna che si trovi una maniera di uscirne, ma non la vedo facile. Grazie Flavio, alla prossima. A voi. Un abbraccio, grazie a Flavio Tranquillo. Paolo da Novara, già in linea, convocatissimo, 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno a voi, mi spiace ma vorrei parlare di calcio. Certo che può, mancherebbe altro. Mi riferisco all'assunzione della Stombilla da parte dell'ex giocatore del Gubbio. Sì, di Farina. Esatto, ecco, io volevo dire una cosa positiva che credo sia una dimostrazione etica incredibile, veramente a livelli di commozione. Devo dire che ho mandato una mail alla società per congratularmi dicendo che ha acquisito un nuovo tifoso per quel che possa interessare loro. Sì, ma lei sa che comunque Paolo, questo era l'obiettivo iniziale di Farina, no? Quando si è cominciato a parlare di questa storia, lui aveva ancora non so se il contratto o col Gubbio o il Gubbio era pronto a prolungargli il contratto, lui ha detto no perché preferisco. Aveva avuto probabilmente già questa proposta, e poi è andato un po' per le lunghe, poi è venuta fuori tutta questa storia, Farina non trova squadra, si è concretizzata l'ipotesi iniziale, che mi sembra un'eccellente soluzione. Io credo sì, però vorrei rimarcare e concludo, forse il poco spazio che è stato dato da questa assunzione da parte dei giornalisti italiani, io ho letto pochissimo, credo invece che sia un fatto che abbia bisogno di essere più rimarcato, ecco, come esempio. Sì, magari sì, io sono sempre dell'idea di non, insomma, di non enfatizzare troppo queste cose. È certamente una splendida notizia, è una notizia positiva. Sono contento che Farina vada a fare questo lavoro in Inghilterra, dove un ragazzo per bene come lui troverà terreno fertile forse più che in Italia. Io dal primo giorno dico che Farina ha tutto il mio rispetto, la mia ammirazione, ma ha fatto quello che sarebbe giusto che tutti facessero, quindi non sono così propenso nel trasformarlo in un supereroe. Questo è il mio pensiero. Paolo da Rimini. Buon pomeriggio. Salve. Mi spiace che Flavio se ne sia già andato, avrei posto la domanda anche lui, ma va benissimo così. Le italiane di Eurolega, con lo spostamento delle partite a giovedì-venerdì, non ti sembra che possano soffrire un po' di più in campionato? E poi velocissimamente Siena, più che la mancanza di Andersen, io temo che quest'anno ci sia la mancanza di un McCallum, perché Bobby Brown sa qualche movista del McCallum, però precisione e pallino in mano non mi paiono proprio... Un altro duello della partitissima di domani da presentare, forse il più atteso, quello degli attaccanti. Io voglio segnare per la mia squadra, io voglio segnare per il Napoli. Mi piacerebbe segnare per regalare quella emozione prima a tutti i compagni e dopo a tutta questa città. He's the guy who's the talk of the town. With the restless gun. C'è già solo il nome della squadra, che come ho detto già prima è la squadra più famosa al mondo, più conosciuta e più amata dagli italiani. Quindi già quando mio procuratore mi ha detto Juventus non ho avuto dubbi. Credi che la faccenda sia finita qui? Sì, credo di sì. La faccenda dei duelli è finita qui con Cavani, arrivato in ritardo come sapete causa insomma disguidi aeroportuali, e Vucinic che però ha detto oggi che era in conferenza stampa, è messo peggio di Buffon, debilitato dall'influenza intestinale, dunque in dubbio per la convocazione, e sarebbe un'assenza ovviamente, dico una banalità, non da poco per la Juventus, perché credo sia sempre comunque il giocatore offensivo juventino in grado di fare la differenza. Cristian Teramo, buongiorno. Salve, buon pomeriggio. Ecco, vorrei intervenire proprio su questo. Io volevo rimarcare come il calendario proprio di Serie A non tenga conto di queste partitissime. No, il calendario perché va a ridosso, diciamo, degli due impegni delle nazionali. Ecco, va bene, posso sì, e poi va a ridosso anche della Champions League la settimana della prossima. Della Champions League dopo, a cavallo. Ecco, proprio lì in mezzo. Quindi non si poteva neanche giocare la domenica pomeriggio o la domenica sera perché c'era l'impegno della Champions. Ecco, non si tiene conto poi del fatto, ecco, io sono juventino, però capisco anche i problemi di Cavani, tutti i sudamericani, poi ecco l'infortunio di Buffon, sono defezioni che poi vanno a discapito anche dello spettacolo, perché ecco io andrò a vedere la partita, mi piaceva vedere Vucinic o Cavani al meglio, o Buffon in porta, ecco, le chiedevo un suo commento non si può tenere conto anche di questo. Ma il mio commento è semplicissimo, bisogna tenere conto di un sacco di cose, soprattutto del fatto che i calendari sono complicatissimi e che, torno a ripetere, sarebbe meglio concentrare in un altro periodo dell'anno tutti gli impegni delle nazionali, ma questo lo dice Platini, non lo dico io. Prima di Vincenzo dalla provincia di Bari, io volevo farvi sentire anche che cosa ha detto Cristian Vieri su Balotelli e sul Manchester City a Dario Ricci questa mattina. A proposito di ex interisti illustri, abbiamo parlato di giovani, potrebbe essere la Champions dei giovani, potrebbe essere la Champions di Mario Balotelli. Non lo so, ma non lo seguo più di tanto, quindi non lo so, so che Manchester è una buona squadra, ha grandissimi attaccanti, ed è lì, Mancini è bravo, ha fatto delle grandissime cose in questi 2-3 anni a Manchester, quindi non so se la squadra è pronta per vincere una Champions. Vedo altre squadre più avanti del City, però comunque è lì e se la gioca con tutte. Così Vieri, non so, non seguo più di tanto, importa poco. Allora, Vincenzo dalla provincia di Bari c'è? Non c'è Vincenzo dalla provincia di Bari perché ha avuto paura del domandone sulla Champions League che è in arrivo. E allora vediamo di trovare un altro ascoltatore da tormentare con la domanda sulla Champions League. Intanto noi la facciamo, I numeri della Champions. Vabbè, avete paura, oggi non c'è l'ascoltatore che vuole rispondere. Tra l'altro mi pare che questo sia l'ultimo appuntamento con questo insomma, in fondo divertente giochino si conclude il viaggio della Coppa dalle Grandi Orecchie in Italia, oggi a Roma. È un viaggio che ha riscosso un successo straordinario. Allora ve lo dico io oggi qual è il numero della Champions. Il Bayern Monaco detiene il record per la vittoria con più scarto nel punteggio complessivo delle partite di andata e ritorno per quanto riguarda la sola Champions League, avendo battuto lo Sporting Lisbona negli ottavi di finale dell'edizione 2008-2009 con il risultato di 0-5 nella gara di andata e 7-1 in quella di ritorno. Morale 12-1 per il Bayern Monaco sul povero Sporting Lisbona. I numeri della Champions in collaborazione con Unicredit. Avete avuto paura e vabbè, stavolta ve la siete sfangata. Riccardo da Treviso. Sì, buonasera, buongiorno. Buongiorno, dica. Volevo solo parlare da trevigiano che per quest'anno, per il campionato di basket, sì, per noi è un lutto non indifferente. Questo soprattutto per il fatto che Treviso sta puntando molto, punta molto sulle squadre giovanili, ne è un esempio la Ghirada. Eh beh, non scopriamo nulla di nuovo, la Ghirada è uno dei gioielli del nostro panorama sportivo intero. Sì, anche, però appunto a differenza della squadra punta moltissimo sui giovani, sui vivai, ma non ha la squadra, la prima squadra. Sì, certo. Intanto stamattina però, guardi, ho letto una notizia, si punta sui giovani a Treviso, è sempre stata una fucina importantissima, anche un luogo in cui sono usciti degli uomini e dei ragazzi per bene, sia parlo del rugby, del basket e della pallavolo. Intanto stamattina leggevo che per la partita di domenica con il Castelfranco, campionato di promozione, con Treviso giocheranno Riccardo Pittis, Claudio Coldebella, Davide Croce e Filippo Sales, e poi nelle prossime partite altri vecchi ex trevigiani. Possiamo sentire in chiusura il ricordo invece di Fiorenzo Magni da parte di Martini, raccolto da Dario Ceccarelli. Ciao a tutti, ci sentiamo lunedì. L'abbiamo definito tutti il terzo uomo. Terzo uomo, ma non sempre è stato il terzo uomo, perché vincere tre giri d'Italia nel periodo di Coppi e Bartali, tre li ha vinti quando c'erano anche Coppi e due quando c'era anche Bartali, perché Bartali smise di correre nel 1954, Magni vinse il suo terzo giro d'Italia nel 1955 a oltre 34 anni. Sai, una volta, per dire le qualità di Fiorenzo, il grande Girardengo, Costante Girardengo, disse, andando a vedere una corsa dilettante alla quale partecipava Magni: se non diventa un campione questo, penso che non mi intendo più di ciclismo. E Magni diventò campione, ma il campione sa di essere chiamato il terzo uomo dopo due fuori classe come Coppi e Bartali.